Italia in controluce. È il 19 luglio 1992. 20 anni fa la mafia lanciava il suo secondo avvertimento allo Stato. Dopo Giovanni Falcone, colpito a Capaci insieme alla moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, toccava proprio a Paolo Borsellino pagare con la vita la forza di un ricatto e di una trattativa. Sì, avete capito bene. Paolo Borsellino, come Giovanni Falcone, avevano compreso qualcosa di indicibile allora, tra il maggio e il luglio del 92. Uomini dello Stato si erano seduti sullo stesso tavolo con Cosa Nostra per stabilire le nuove regole della pace dopo la guerra. Una trattativa infinita. Una tradizione, un modus operandi, direbbero i magistrati, che nasce anni prima e non è cosa solo del 1992. Infatti nel 1981, durante il rapimento dell'allora assessore ai lavori pubblici della regione Campania, Ciro Cirillo, ad opera delle Brigate Rosse, lo Stato aveva trattato ai massimi livelli con la Camorra di Cutolo, Ministero dell'Interno, Servizi Segreti, DC, proprio per liberare Cirillo. Allora lo Stato pagò il riscatto, ma la storia non è mai stata fino in fondo chiarita e quel buco nero, diciamo quel patto, venne applicato anche con Cosa Nostra nell'estate del 92. I cittadini però in questi giorni chiedono allo Stato chiarezza, verità e giustizia a 20 anni dalla strage di Via D'Amelio. Lo gridano in queste ore associazioni, persone nelle piazze, nelle strade, nel paese. Chissà parli, chi ha sbagliato faccia a posto, subito, perché uno Stato, per essere credibile, deve anche saper cambiare, cacciando via i funzionari infedeli in nome di un radicale rinnovamento. Ma c'è un documento sonoro che più di ogni altro ci fa capire cosa furono quegli anni e cosa ci potrebbe essere dietro a quegli anni. E non è una storia del passato, anche se sembra. È il 21 maggio del 1992. Mancano 48 ore dalla morte del suo amico nonché collega Giovanni Falcone. Paolo Borsellino accoglie nel suo studio di casa in Via Cilea i due giornalisti francesi Jean-Pierre Moscardot e Fabrizio Calvi. Un'intervista che dura 50 minuti verte sui rapporti tra mafia e ambienti industriali nel nord del paese. Noi oggi vi trasmettiamo una piccola parte di questa intervista. Non si può dire che sia stata manipolata. È comunque il nostro modo per ricordare Paolo Borsellino con i fatti. Vittorio Mangano l'ho conosciuto anche in periodo antecedente al maxi processo. Precisamente negli anni fra il 75 e l'80 ricordo di aver istruito un procedimento che riguardava una delle estorsioni fatte a carico di talune cliniche private palermitane. Vittorio Mangano fu indicato sia da Buscetta che da Contorno come uomo d'onore appartenente a Cosa Nostra. Mangano doveva appartenere a Cosa Nostra, si sa che niente. Ma io se capisco, sì. Buscetta sì. E Contorno. Okay. Uomo d'onore di che famiglia? L'uomo d'onore della famiglia di Pippo Calò, cioè di quel personaggio capo della famiglia di Portanuova, famiglia alla quale originariamente faceva parte lo stesso Buscetta. Si accertò che il Vittorio Mangano, ma questo già risultava dal procedimento precedente che avevo istruito io, e risultava altresì da un procedimento, cosiddetto procedimento Spatola, che Falcone aveva istruito negli anni immediatamente precedenti al maxi processo, che Vittorio Mangano risiedeva abitualmente a Milano, città da dove, come risultò da numerose intercettazioni telefoniche, costituiva un terminale del traffico di droga, di traffici di droga che conducevano le famiglie palermitane. E questo Mangano Vittorio faceva traffico di droga a Milano? Vittorio Mangano, se ci vogliamo limitare a quelle che furono le emergenze probatorie più importanti, risulta l'interlocutore di una telefonata